ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Tutti a scuola! Vabbè, cara Maria, Piera, Ceci, tutti a scuola, sì, tutti infatti, quelli che ogni volta riescono. Che sentiamo questa sigla ci viene un po' di pelle d'oca. Sempre meno a scuola. Allora, gli quasi ultimi tutti a scuola. Speriamo ancora tutti a scuola. Forse almeno quelli ancora che ci vanno. Tutti a scuola. Potremmo sì, aggiornare. In effetti così. La dobbiamo aggiornare perché suona un po' sempre più così bizzarra. Alla fine dell'anno sarà qualcuno c'è qualcuno a scuola. Allora, 2.348 gli studenti risultati positivi al Covid. Stiamo parlando naturalmente dell'ultimo monitoraggio relativo agli studenti. 402 i professori, 144 gli operatori ATA e il personale non docente. Quindi insomma numeri ancora gestibili, l'ha detto, lo ricorda Lazzolina, dice la scuola non chiuderà e del resto è stata fatta davvero tanta fatica per riaprirla, ci mancherebbe. Però siamo un po' nell'ambito dell'ipocrisia, perché è vero che la scuola non chiuderà nel suo complesso, però stanno già chiudendo un sacco di classi, stanno chiudendo un sacco di scuole e la cosa più grave è che, come denunciano fonti sindacali, non tutte le classi possono continuare a fare didattica attraverso la didattica a distanza, che poi quest'anno si chiama didattica digitale integrata, vuole essere qualcosa di più. Scatterebbe solo in 2 classi su 4, quindi gli altri se ne stanno a casa senza fare scuola. E parliamo soprattutto dei più piccoli, primaria e secondaria di primo grado. Sì. Tanto più se non è tutta la classe ad andare in quarantena, ma è un singolo, cioè un ragazzino che deve stare in quarantena 14 giorni. Poi abbiamo visto che oggi forse verrà ridotta a 10, non può chiedere al professore di accendere un telefonino in classe e fargli fare un po' di didattica a distanza, quindi davvero una situazione difficile. Quelli che comunque a scuola ci vanno non è che stiano tanto meglio, perché l'avrai visto anche tu oggi sui giornali. E insomma i professori ancora non arrivano sì. Ci sono tantissime cattedre scoperte, situazione particolarmente critica a Milano e in Lombardia, tant'è che il Ministero dell'Istruzione ha inviato una specie di ispettori. Uh-huh. Si è parlato di un commissariamento dell'ex ministro Bussetti, che ora è a capo dell'ufficio scolastico territoriale di Milano, il provveditoriato, insomma una task force. In Lombardia dicono ci stanno commissariando, dal ministero dicono no, vi stiamo aiutando. Questo, esattamente, vi stiamo mandando delle persone per aiutarvi, perché in effetti quest'anno non sembra più complicato del solito, e lo vediamo perché tutti i nostri figli sono senza insegnanti ancora o comunque senza tutti gli insegnanti. Si spera che con questa task force il procedimento diventi un po' più agevole, un po' più veloce, e questi benedetti insegnanti arriveranno in cattedra. Che poi insegnanti? Quali insegnanti? Non ci sono. Vogliamo partire da qui con il nostro ospite, che è Marcello Pacifico, insegnante e presiede l'ANIEF, Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori. Buongiorno Pacifico. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Questa vicenda lombarda la conosceva, l'ha conosciuta, e che ne pensa? Sì, la conosco, perché in realtà in Lombardia, ma in particolar modo nella provincia di Milano, abbiamo la percentuale con un alto numero di scuole d'Italia. Solo la provincia di Milano ha lo stesso numero di personale dell'intera regione Veneto come supplenti. Il problema qual è? Il problema è che questi supplenti li potevamo immettere in ruolo dopo anni di precariato, e invece col Covid abbiamo dovuto rinviare i concorsi, tra l'altro ora si dovrebbero svolgere però in piena pandemia, con una serie di problemi veramente. Adesso ne parliamo. Però insomma che significa questo commissariamento fra virgolette di Milano? I lavoratori peraltro si sono anche un po' arrabbiati, perché hanno detto come quelli del provveditorato, invece di ringraziarci che stiamo facendo un super lavoro, ma insomma come mai non si trovano questi insegnanti su Milano? E allora il problema su Milano nasce innanzitutto dal fatto che tutti i provveditorati, compreso quello di Milano, hanno un organico che è pari alla metà di quello che bisognerebbe per gestire queste pratiche. Sono arrivate 750.000 domande per inserirsi nelle graduatorie come supplenti, con una tabella di valutazione dei titoli che purtroppo dopo 13 anni è stata cambiata. È vero che le nuove graduatorie provinciali sono graduatorie nuove, ma sono state cambiate anche le graduatorie di istituto, per cui in un mese si è ritrovati attraverso le scuole polo, che dovevano gestire la valutazione della correttezza di queste domande rispetto all'ordinanza, si sono combinati tanti pasticci e poi c'è stata tanta confusione con queste regole nuove sui titoli, e laddove ci sono grandissimi numeri, 120.000 domande credo solo nella provincia di Milano, si è ritrovati in estrema difficoltà in un momento in cui ad agosto anche le scuole erano chiuse, ma perché per ferie forzate del personale. E quindi c'è stato tutto questo insieme. Quindi ben venga l'aiuto che arriva dal Ministero dell'Istruzione, insomma. Deve arrivare questo aiuto, e poi ripeto, laddove invece ci dovessero essere responsabilità da parte dei dirigenti, un altro commissariamento è venuto a Cosenza, per esempio. Quindi non è solo Milano. Non è solo Milano. Vogliamo parlare un po' di questo, sì, ecco, di questo concorso? E comunque, una volta che si, come dire, sarà un po' più agevole chiamare gli insegnanti e la cosa si sbloccherà, andrà avanti così, non si risolverà il problema, perché poi di fatto gli insegnanti non ci sono, e non si risolverà nemmeno con il concorso straordinario del 22 ottobre, contro cui i sindacati hanno organizzato una manifestazione mercoledì. L'ANIEF non è fra queste, ma l'ANIEF stasera farà tutta una serie di questo è interessante iniziative. Da capire, cioè, una volta che c'è un concorso, come mai? Una volta che c'è un concorso, come mai i sindacati sono contro? Allora, questo concorso ha avuto una genesi molto complicata, doveva tenersi in estate, poi per una questione di pressioni sia da parte dei sindacati sia da parte di alcune forze politiche, tipo anche il PD, si è deciso di rimandarlo all'autunno, però siamo in piena pandemia, quindi i sindacati dicono non possiamo far spostare le persone da una regione all'altra. Facciamolo online, lo fanno già online, ma in presenza in alcune scuole e in alcune università che hanno messo a disposizione le classi. Pacifico, voi dite pericoloso spostarsi da una regione all'altra, eccetera. In realtà il protocollo che è stato predisposto prevede che 20.000 postazioni in tutta Italia, una media di 10 candidati per aula, quindi tutta questa promiscuità non mi sembra di vederla, divise su due turni, quindi la mattina e il pomeriggio. L'Azzolina ha anche invitato i presidi delle scuole a non interrompere le lezioni. Dove lo vede tutto questo problema? Allora, il primo problema riguarda quei candidati non solo che non sono positivi, ma che sono obbligati a stare in isolamento fiduciario. Basti pensare che ogni giorno noi chiudiamo delle classi o degli istituti, e anche persone che non hanno fatto il tampone, comunque non sono positivi o contagiati, sono costretti, insegnanti, a stare chiusi a casa per 15 giorni, quindi non si potrebbero presentare alle prove. Tanto che come ANES abbiamo chiesto, se le prove proprio le volete fare, fate delle sessioni suppletive per chi è impedito, perché questo è vero. Sa quanti studenti hanno saltato l'esame di ammissione a medicina? Li abbiamo ospitati per questo motivo. Perfetto, io su questo tra l'altro su questo avete ragione, insomma. Abbiamo chiesto anche al Ministero della Funzione Pubblica e al Ministero pure Manfredi, sia per i test di medicina sia per i test del TFA sostegno. E allora bisogna cambiare anche le regole. L'unicità della prova è una volta che c'è il Covid e si fanno più sessioni. Avete ragione, è quindi inutile andare avanti. Ma per gli altri, insomma, che si facciano questi concorsi, perché intanto è previsto dalla Costituzione che per entrare in un posto pubblico si faccia, no? Un concorso. E poi ci sono, tra l'altro, il doppio dei candidati dei posti disponibili. Quindi come si fa poi a scegliere se non facciamo il concorso? Allora, i concorsi è normale ed è giusto che si facciano, ma come è anche giusto parallelamente, è successo in passato, dal 2015 ad oggi abbiamo bandito 5 concorsi, compreso quelli di ora, e non abbiamo risolto il problema del precariato. Perché non abbiamo risolto il problema del precariato? Perché purtroppo noi come Stato italiano continuiamo a pensare che un precario possa, senza fare il concorso, insegnare nelle nostre scuole e utilizzarlo come precario per 10-15 anni, mentre poi per stabilizzarlo deve per forza fare un concorso. Non è quello che prevedeva la nostra normativa, perché per 20 anni in Italia potevamo assumere o attraverso i concorsi o attraverso delle graduatorie per titoli. Purtroppo questo problema in Italia, da quando dal 2012 si è deciso di non assumere più i precari dalle graduatorie per titoli, il numero di precari aumenta di anno in anno, e il numero di posti per le missioni in ruolo, quest'anno su 80.000 posti di missioni in ruo abbiamo avuto soltanto 60.000. Lei cosa proporrebbe in alternativa? Immettiamoli in ruolo senza concorso, visto che sono precari? Chiedo quello che ci dice l'Europa, ci dice la Corte di Giustizia Europea, ce l'ha detto anche la nostra Cassazione e anche la Corte Costituzionale. Il sistema italiano, laddove prevede alcuni che entrano da concorso, altri che entrano da graduatorie per titoli, è la giusta risposta all'abuso del precariato che fa lo Stato italiano nei confronti di migliaia. Quindi bisognerebbe continuare a assumere quelli che hanno fatto il concorso, e così è stato fatto anche e quelli che sono precari da tot di anni, e insomma, che sono graduatorie per titoli, quindi riaprire le graduatorie ad esaurimento o utilizzare queste graduatorie provinciali non solo per le supplenze, anche per le missioni a ruolo sul 50% dei posti. Ma scusi, le sembra giusto che qualcuno però debba fare il concorso e qualcuno lo aggiri e entri per titoli? Non è ingiusto un trattamento? Il problema non è aggirare le norme, il problema è seguire le norme. È lo Stato italiano che aggira le norme sulla stabilità. Il Pacifico dice precari. Anche lo Stato italiano che usa precari per anni aggira. Su questo ha ragione. Anche diciamo perché... che la soluzione finale è dice, visto che l'aggirate voi Stato, allora a questo punto immettete anche il ruolo per titoli quelli che utilizzate erroneamente per anni in una fase di precariato. Aggiungiamo anche un'ulteriore ipocrisia nella nostra scuola, che i precari che non dovessero superare questo concorso per qualche ragione il giorno dopo sono di nuovo in cattedra. Esatto, c'è anche quindi questo. Abbiamo deciso che non possono insegnare, ma tanto insegnano perché ce n'è bisogno. Perché ce n'è bisogno, quindi o li buttiamo fuori. Marcello Pacifico, noi la dobbiamo salutare perché c'è il momento del traffico, così come Maria Pia da Ceci. Ti dobbiamo salutare, ma ci ritroviamo lunedì e vedremo mercoledì questa manifestazione.